Oggi io non ho proprio voglia di vedere gente intorno, più di tutte le porte. Oggi dicono a chi mi imbroglia, chi manovra ogni giorno, verità capovolte, me ne sto qui da solo con te. Il pericolo che c'è lo terremo a distanza, me ne sto qui da solo con te. Voglio farlo prima che il cielo crolli sulla stanza. Fammi respirare solo un attimo di pace, questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te. Fammi assaporare questo attimo di pace per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi che anche sogni atterrano e chiudono le ali, perché è tempo di volare, non è, no, non è, yeah. Vista la città dalla collina sembra un gigantesco flipper, tutte quelle luci, anche se questo gioco non è. Le palline siamo noi schizzate in una folle danza. Un momento così, chissà quando poi tornerà. Un momento così, io vorrei davvero fosse l'anomalia. Questo sorso d'aria pura finché c'è. Voglio dedicarmi solo agli affetti a me più cari, specialmente se si tratta di te, yeah, yeah. Fammi assaporare questo attimo di pace per sentirlo fino in fondo dentro me. Oggi che anche sogni a te.